Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I ragazzi del paese mangiarono la pasta e fecero anche i complimenti, che a quell'età non ti importa se ti stai massacrando la bocca, quando il vino scorre e sei di fronte a un lago nero e una luna immensa. È stato così che ho imparato che le cicale sono buonissime, ma bisogna saperle pulire. Mi chiamo Silvia, ho 47 anni e due figlie. Sono nata a Milano e mi sono trasferita in Toscana nel 2002. Prima a Piazzano, che è un paesino in provincia di Lucca, e poi a Torre del Lago. Sono architetto e a Viareggio ho lavorato come interior yacht design, ma facevo solo i disegni. Carpaccio di pesce spada marinato in succo di limone, olio e erbette tritate, a parer mio è ottimo, linda. Andrea, una bella grigliata di carne al barbecue. Liliana, la caponata, friselle, pomodorini, olio, sale, basilico e una ricetta sott'olio. Veloce, fresco e saporito. Marcella, pasta fredda con olive nere, ciliegine di mozzarella, pomodorini e il mio basilico. Semplice e ottima. No, non stiamo facendo la food radio, esiste già la food television. Noi oggi, come al solito, raccontiamo storie. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui. Sono le 16:09 minuti di un bel venerdì, come avete sentito, bello caldo, 14 di giugno 2013. Mancano due settimane alla chiusura della stagione, mancano meno di due settimane al live di Voi siete qui, che si terrà, vi ricordo, il 27 di giugno alle ore 21. È gratis, venite qui, vi ascoltate 10 storie selezionate da tutta la stagione, dall'arco della stagione. Per venire qui andate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina Voi siete qui, cliccate sulla mia foto in alto a sinistra e entrate in un form, in una pagina in cui dovete semplicemente inserire i vostri dati. Inviate, stampate e venite qui con la stampa. Ci vediamo quella sera per raccontare altre storie, o meglio, per risentire delle storie, con molto probabilmente una piccola sorpresa per tutti quelli che ci saranno. C'è un'altra cosa da dire, poi chiudo con la parte di servizio. È quasi pronto anche l'ebook di quest'anno. L'anno scorso è uscito un po' prima perché era uscito insieme al Salone del Libro. Quest'anno non siamo andati al Salone del Libro e quindi abbiamo semplicemente posticipato un po' il tutto. Però a breve sarà online, mercoledì prossimo, mi dice Tiziano, sarà scaricabile dal nostro sito, l'ebook della stagione 2012-2013 di Voi siete qui. Oggi raccontiamo storie che sono legate al cibo, o meglio raccontiamo la storia di Silvia, che parla delle cicale di mare e di un piatto che cucinò un'estate in cui era una ragazza, e della storia di quel piatto. Ecco, oggi semplicemente vi chiediamo: qual è la vostra ricetta per l'estate, proprio con gli ingredienti, che tipo di piatto è, e magari anche da dove arriva quella ricetta, dove l'avete imparata, come l'avete imparata o chi ve l'ha raccontata. 349-238-6666 se siete in auto, avete un cellulare a portata di mano, o altrimenti se siete davanti a un computer. Abbiamo Twitter, abbiamo Facebook, sì, a parte che ormai Facebook e Twitter valgono anche per gli smartphone. Voi siete qui, Radio 24, Facebook, voi siete qui, R24, Twitter. La vostra ricetta per l'estate, ingrediente per ingrediente. Questa qui è la storia e la ricetta di Silvia. Intanto la cicala di mare bisogna saperla pulire. Questo l'ho scoperto all'inizio dell'estate dei quasi 17 anni, quando i ragazzi del paese invitarono proprio me a una cena alla bilancia sul lago. Non le mie sorelle, quelle che però portate anche lei, come diceva mia mamma. Io comprai una tonnellata di cicale di mare, feci il soffritto di aglio e prezzemolo, sfumandolo con il vino bianco. E quando l'aglio si fu ammorbidito, buttai le cicale così, intere, come me le aveva vendute il pescatore al molo quel pomeriggio. Scolai la pasta al dente, feci saltare tutto in una teglia da forno perché di padelle grandi non ne avevo. Feci in tempo a coprire la teglia con la carta d'alluminio proprio poco prima che mi chiamassero dal cancello di legno in fondo al giardino. Quando venivo al mare qui, a Torre del Lago, i miei amici mi cercavano sempre di farmi fare qualcosa di speciale. Non c'erano coppiette ed era bellissimo perché eravamo amici affiatati, andavamo in giro per queste zone o verso i monti dove c'erano delle birrerie, c'era il famoso Nebraska dove ci prendevamo delle gran torte, oppure si andava sul lago che era abbastanza infrequentabile in quel periodo perché era pieno di zanzare e parecchio inquinato, ma era molto bello lo stesso. Con la teglia e il suo profumo di pasta alle cicale arrivammo fino al lago, montammo sui barchini e navigammo lungo uno dei canali delle palude, addentandoci nel canneto, tra le carpe che saltavano fuori dall'acqua nera e l'odore di lago, in una notte chiara, di luna piena, in quell'inizio estate dei quasi 17 anni. Attraccammo i barchini al piccolo pontile della bilancia e ci sistemammo sotto la tettoia della capanna. Accendemmo le lampade a gas da campeggio e preparammo la tavola e bevemmo il vino bianco dal fiasco e mangiammo bruschetta con l'olio dell'oliveto. Poi portai la mia pasta in tavola ed era da sballo. E però capii alla prima forchettata che le cicale di mare pungono e ti si aggrappano alla lingua e ti tagliano le guance, le labbra, se non le sai pulire. Loro, i ragazzi del paese, mangiarono la pasta e fecero anche i complimenti, che a quell'età non ti importa se ti stai massacrando la bocca. Quando il vino scorre sei di fronte a un lago nero e una luna immensa. È stato così che ho imparato che le cicale sono buonissime, ma bisogna saperle pulire. Bisogna staccar loro le zampette piccine che stanno vicino alla testa, ringraziandole mentre si agitano e ti scappano dalle mani. Togliere le zampe posteriori accanto alla coda, che sono pelose e hanno i pungiglioni affilati, e tagliare le punte a uncino che si trovano sulle scaglie laterali. Vanno aperte con le forbici lungo il dorso e, ora che hanno finito di agitarsi, vanno tagliate in due o tre parti, testa, tronco e coda. Solo così le puoi cuocere e mangiare. Le cicale di mare non le puoi mangiare con la forchetta, come potresti fare con i gamberoni o gli scampi o con l'astice. Io amo il pesce e quindi la pasta con le cicale è una delle mie preferite, anche da cucinare, perché ha tutto un rito tutto suo che mi ha insegnato mio marito. La pasta con le arcelle, che è un'altra cosa che si mangia qui, è ottima, e le arcelline sono quelle piccole vongole che si recuperano sulla battigia quando ha fatto le mareggiate. Per mangiare le cicale devi sporcarti le mani, aprirle tra le dita e infilarci la lingua e succhiarne la carne. Se sei fortunata trovi una sorpresa, il corallo, che ha un sapore senza pari. Devi però fare attenzione, perché qualche punta affilata ci scappa sempre. La coda la devi stringere fra i denti e morderla e succhiarla senza avvicinare troppo le labbra. Sarà difficile dire quale delle tre parti è la più buona: la testa con il suo gusto acre, il corpo con la carne tenera o la coda con il sugo da raggiungere. Le cicale di mare sono favolose, sono primitive e selvatiche, sanno di mare, ti lasciano il profumo delle onde sulle dita e il senso dell'estate. Soprattutto se hai 17 anni, in una notte nera, insieme ai tuoi amici e con tanto vino in corpo. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Mi piace molto cucinare. Credo che cucinare, insieme ad altre attività manuali semplici come fare piccoli lavoretti in casa o giardinaggio, sia una maniera innocua di rilassarsi. Si svuota la mente dai pensieri fastidiosi e ci si occupa di qualcosa che magari non sei abituato a fare, ma che alla fine deve produrre un risultato visibile. E quando questo risultato appare, che sia un risotto o una mensola in bagno o un vaso di lavanda, in genere si è soddisfatti. E poi a me piace mangiare proprio quello che cucino. Mi sento un po' come in Castaway, dove Tom Hanks era solo su un'isola deserta e se la doveva cavare, e non c'era nessuno a dirgli bravo. Il suo premio era mangiare. Ecco, io la parte del procurarmi il cibo pescando o cacciando la salto, ma quella del cucinarlo no. Faccio bene i primi e le verdure, anche il pesce. Sulla carne faccio un po' fatica, mi viene sempre dura, anche il brasato. Le cicale non le ho mai cucinate, ma di piatti me ne sono inventati diversi. Sì, perché non è che guardi proprio le ricette. Tanto, se cerchi su internet come si fanno, non so, le melanzane alla parmigiana, ad esempio, escono almeno 10 versioni diverse. Fette grosse o sottili, passata o vellutata di pomodoro, verdura fritta, grigliata, mozzarella fresca o quella della pizza, olio, basilico e poi il parmigiano. Ci va veramente oppure no? Sulle porzioni poi ho letto le dosi più varie. E sulla temperatura del forno e sulla durata della cottura addirittura si è sfiorato il ridicolo: da 150 a 200 gradi, da mezz'ora a un'ora di forno. E allora, siccome non credo che nessuno abbia torto in questi casi, ma nessuno, nemmeno che nessuno abbia tutta la ragione, le ricette un po' me le invento. Chiaro che non metto la Nutella sul pollo, ma spesso vado per tentativi. Provo quello che mi sembra giusto fare e a seconda del risultato faccio le mie correzioni al prossimo giro. Qualche volta le modifiche tocca farle anche in corsa ed è più pericoloso, ma dà molta soddisfazione. Diverse estati fa Ero in Corsica con i miei tre amici preferiti, per una settimana, solo uomini, in una casa vicino al mare. Un posto così accogliente che ho pensato di andarci a vivere là. Quando si sta al mare con gli amici, gli orari sono un po' generici. Però a una certa ora tutti si radunano inesorabilmente dalle parti del terrazzo, dove c'era il tavolo in cui si mangiava, come dei gatti intorno alla gattara. Solo che di solito la gattara, cioè la cuoca, non c'è in un gruppo di uomini che va al mare insieme. E tutti si aspettano che il cibo compaia come per magia sulla tavola. Non c'erano abbastanza soldi per andare in un ristorante di pesce, quindi il rischio era andare avanti a pane, pomodoro e cipolla, le uniche cose che avevamo comprato. A me piace mangiare pane, pomodoro e cipolla, ma colazione, pranzo e cena tutti i giorni no. E allora quella sera io mi candido per cucinare. Ci sono pochi ingredienti perché nessuno ha fatto una spesa sensata, ovviamente. La pasta però non manca e quindi comincio da lì. Penso che farò degli spaghetti. Mi metto un grembiule e vengo anche preso in giro. Prendo i pomodori, li faccio a pezzetti. In una padella scaldo dell'olio e metto i pomodori tritati, però senza che si cuociano troppo. Esco in giardino, trovo una pianta di basilico che al mare c'è sempre. Prendo una manciata di foglie e le metto nella pentola. In cucina ci sono già tutti pronti a darmi consigli. Io alzo il volume della radio per non ascoltarli e taglio le cipolle sottili. Metto l'acqua a bollire e ci infilo mezzo chilo di pasta. Non ho un orologio, quindi tra un po' la assaggerò per sapere se è pronta. Metto il resto dei pomodori in una ciotola, insieme alla cipolla e all'olio d'oliva. Mi sembra che manchi qualcosa. E allora apro il frigo. Vedo una busta di rucola dell'S lunga che qualcuno si è portato da Milano e un pezzo di grana. Lavo la rucola, la taglio a pezzi piccoli. Poi faccio a scaglia il grana e metto tutto insieme alla cipolla e al pomodoro fresco. E poi verso tutto il pomodoro che avevo fatto scaldare prima. Secondo me quei sapori ci staranno bene. Ci condisco la pasta e la porto in tavola, dove qualcuno ha apparecchiato. E vai a sapere. Sarà la fame, sarà l'idea di stare in vacanza con gli amici, sarà il mare, non lo so, sarà la soddisfazione di aver cucinato, ma quella cena me la ricordo ancora. E ogni tanto, quando voglio far finta di essere su un terrazzo in Corsica, senza pensieri e con il profumo dell'estate nel naso, cucino quel piatto senza nome e quasi mi sento un cuoco. All I need from you is a good conversation, cause it gives me sweet inspiration, where I can see more clearly, where I can see more clearly. Mi piace immaginare che questo primo fine settimana di d'estate o di tarda primavera che sia, voi lo passiate al mare, magari andate anche in montagna o in campagna o state in città, ma mi piace immaginarvi, tutti voi che state ascoltando, al mare con la vostra famiglia o con dei vostri amici, a cucinare qualcosa che vi piace, fossero delle cicale di mare o delle canocchie, che poi ho scoperto essere esattamente la stessa cosa. 349-238-6666, i piatti preferiti arrivano, Marco, qualcosa di poverissimo, pane bagnato con acqua, anche raffermo, olio, sale, cipolle, a fette, pomodoro, poi ci va anche una bella fetta di lonza casereccia. Marco, suona come una roba toscana questa, forse comunque centro Italia. Quando sono fuori per lavoro, pasta fredda tutta la vita, fusilli, pomodoro e tonno. Quando sono invece in famiglia, linguine al nero di seppia o vongole. Vostro Beppe. Beppe, sei totalmente nostro e ti aspettiamo al live giovedì 27 giugno alle 21, è gratuito, iscriviti. Aspettiamo al live, nonostante non sia a Milano in questo momento, anche Silvia ovviamente. Pronto Silvia? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Non sei a Milano, vero? Sei sul luogo del... non del delitto, sul luogo delle canocchie però. Sono a Torre del Lago Puccini. Torre del Lago Puccini, ecco, perché prima ci siamo sentiti fuori onda e ti chiedevo se è esattamente quella... cioè ce n'è una di Torre del Lago, giusto? Sì, ce n'è una sola. Che è quello del Festival Pucciniano. Che è quello del Festival e quello che ha ospitato Puccini per... Ma tra l'altro, se non ricordo male, io ci passai qualche giorno appena diplomatomi alla maturità con un amico che aveva una casa da quelle parti, ma lì c'è, o sbaglio, una spiaggia famosa di nudisti? No. Mi colli impreparato. Ci sono due spiagge molto grandi, cioè c'è parecchia spiaggia libera, e ci sono queste due spiagge in cui sì, effettivamente si trovano anche nudisti, però non è nota. Non è nota. Allora forse ho detto una boiata o semplicemente sono, non so, sono passati degli anni. No, è nota, è molto gay friendly, per cui ci sono queste spiagge che sono proprio, come dire, preferite da tutto una serie di persone. Ok, ma locali. Che però non ha a che fare con nudismo, insomma, quindi proviene dall'altra parte. Silvia, senti, ma perché un gruppo di amici che sta al mare va sul lago a fare una cena come quella che avete fatto voi? E perché qui siamo proprio a metà tra il lago e il mare. Il lago è molto bello, è grande e adesso fa parte del circuito del Parco Nazionale, di Parco Regionale di Massaciuccoli, San Rossore e Vecchiano, dove c'è anche la tenuta del Presidente della Repubblica. Okay. Sul lago i ragazzi di qui ci sono cresciuti, ci andavano a pescare, ci facevano i giri in barca, e poi c'è questa cosa delle bilance, che sono poi queste reti per pescare, che sono reti rettangolari molto sì. grandi, che vengono tirate giù con un argano, ed è proprio tipico di qui passare il fine settimana in bilancia, si dormiva in queste capannine e poi ah, si quindi la bilancia di fatto è una capanna di un pescatore sul lago, più o meno? Sì, sì. Che ce ne sono di simili, credo, sull'Adriatico, dalla parte tua, Paolino, però hanno un altro nome, si chiamano, sono delle grandi capanne con queste reti che si estendono su due braccia in legno, non ricordo, però mi pare una roba simile. Vabbè, sicuramente qualcuno lo saprà e me lo scriverà, 349-238-6666. Qualcuno mi scrive invece, Silvia, Filippo da Lucca, il Nebraska di Camaiore, che ricordi? È notissimo, sì sì. Ma esiste veramente... ancora questo posto, quello delle storte? Esiste ancora, non so se lavora ancora, io è tanto tempo che non ci vado più, però è proprio storico. Tu però sei milanese, giusto? Cioè hai passato sì. lì le tue estati, quindi eri, come dire, eri, arrivavi con i ragazzi locali che di solito non accettano quelli che passano lì tutta l'estate e ci si ricorda poi di quei giorni trascorsi insieme, però adesso sei tornata lì, ma sei di Milano. Cosa è successo in questi anni? Un sacco di cose, immagino, dai 17 adesso. Cose, sì. Però che, insomma, che cosa fai nella vita? Hai dei figli? Hai una famiglia? Allora, io avevo uno studio a Milano in Piazzale Lotto. Ah, qui vicino proprio. Ho conosciuto mio marito, mi sono spostata qui, prima appunto in provincia di frazione di Lucca. Ho due figlie che hanno 11 e 9 anni. Ma tu che lavoro fai esattamente? Adesso io sono architetto. Architetto, ok, giusto, giusto, per cui avevi lo studio. E poi hai disegnato interni di barche. Ho lavorato in un ufficio che si occupa di interior yacht design, che io manco sapevo che esistesse questa possibilità. E invece era esiste. Molto bello finché è durato. Ah, perché poi hanno chiuso o semplicemente hanno limitato il personale? Hanno limitato il personale perché c'è parecchia crisi e quindi diciamo che lo yacht, malgrado abbia parecchio mercato, però evita, diciamo che non è un investimento che in questo momento viene considerato appetibile. Perché effettivamente, scusami, il mercato del lusso dicono che sia quello che continua ad andare, no? Continua a tirare. Purtroppo esiste una delocalizzazione anche in questo mercato, nel senso che Viareggio è sempre stato un leader nella produzione di yacht, ci sono grandi cantieri come la Perini, certo. Ma temo che in questo momento ci sia uno spostamento anche di questo settore. Ho capito. Verso la Cina e il Brasile. Silvia, adesso hai imparato a cucinarle ste cicale, che cosa fai per questo fine settimana? Dici un piatto buono che cucini per la famiglia lì a Torre del Lago Puccini. Fantastico. Faccio la pasta col tonno. Benissimo. E allora in bocca al lupo a tutta la tua famiglia. Silvia, in bocca al lupo anche a te. Ti aspettiamo, hai detto, al live ci sei, vero? Sì, sì, ci sarò. Ci sei il 27 di giugno. 27 alle 21. Di giugno sarò lì. Silvia, grazie ancora. Grazie a te. Ciao, Matteo. Buona giornata. Ciao, grazie. Qualcuno si avventura addirittura a preparare la caponata per l'estate e qualcuno addirittura polenta e brasato il 15 di agosto. Gianni da Castelmarte. Voi siete qui. C'è Silvia in primissimo piano che guarda verso il basso, guarda la spiaggia perché si vede della sabbia intorno a lei, ha su una canottiera e a giudicare dalla luce che c'è sulla spiaggia e sulle dune alle sue spalle è probabilmente quell'ora della sera in cui la gente se n'è già andata via dalla spiaggia in estate e hai voglia di rimanertene ancora un po' lì. Forse ti viene fame e vuoi mangiarti delle canocchie o delle cicale di mare, però hai ancora voglia di rimanere lì qualche minuto prima che completamente scende la luce e comincia anche a fare un po' fresco. Questo nella foto che c'è sul sito di Radio 24 alla nostra pagina di Voi Siete Qui. Ricetta. Sostantivo femminile. prescrizione scritta rilasciata dal medico, talvolta con riferimento alle norme che vi sono contenute, estensivo, rimedio, antidoto. Indicazione relativa agli ingredienti, alle dosi, alla preparazione di una pietanza, di una bevanda, di un dolce o anche di qualsiasi altro composto o miscela e particolarmente di preparati chimici e farmaceutici. Etimo, dal latino recepta, femminile del participio passato di recipere, prendere. Data prima del 1320. Si chiamano trabocchi, quelle capanne di pescatori che si trovano in sull'Adriatico, anche se mi dicono sostanzialmente in Abruzzo, Paolino, non so se ci sono, ce ne sono, ok, però credo siano più abruzzesi che altro. Qualcuno mi scrive anche non sono la stessa cosa e ti ringrazio, non osavo dire che erano la stessa cosa e probabilmente non pescano lo stesso pesce, visto che quelli di cui ci ha parlato Silvia sono su un lago e questi sono sul mare. Però diciamo che a uno che non sa cosa sia la pesca sembrano più o meno la stessa cosa. Le cicale 30 anni fa, scrive Leo da Viareggio, te le davano di resto. Oggi costano 18 euro al chilo. Il pane bagnato invece con la verdura si chiama panzanella. PS, vuole dirci proprio tutto Leo in questo messaggio, il Nebraska è ancora aperto, ma il mito ormai è andato. Sarebbe stato facile chiamare qualcuno di questi chef un po' fighi che si vedono in televisione e che un po' se la tirano anche, no? Che sembra che mettono un pizzico di sale e la ricetta è pronta, perché altrimenti prima invece faceva schifo. Invece noi abbiamo deciso di chiamare uno chef che in realtà è noto anche lui perché lavora anche in televisione, ma così a quel pizzico di Umbria che si porta con sé, che ci piace tanto, non fosse altro che Tiziano è umbro e ne avevamo parlato qualche giorno fa. Benvenuto a Giorgio Barchiesi. Pronto Giorgio? Eccomi, sono qua. Giorgio, eccomi. Giorgio che per tutti è Giorgione. Giorgione, sì, beh, perché sono alto e ben distribuito. Dove si trova in questo momento? Posso chiamarla? A Montefalco. Diamoci del tu. A Montefalco, nella tua cucina, giusto? Nella mia cucina. Sono uscito fuori perché i rumori se no non consentivano questa intervista. Tra l'altro è un ristorante nuovo, vero? Guarda, ho riaperto dopo un anno di fermo perché mi sono dovuto trasferire e quindi ho riaperto da circa 20 giorni, un mese. Che tipo di cucina fai, Giorgio? Per dirla in breve. Io sono molto, come si dice, spazioso, nel senso che sicuramente sono umbro di adozione, romano di nascita, ma ho assimilato parecchie cucine anche mitteleuropee. Avevo una cuoca da bambino che era della Valpusteria e poi avevo avuto un altro cuoco che era tedesco, insomma ci sono un po' di contaminazioni, per esempio anche col Piemonte, perché avevamo una casa a Colmaio, insomma ho assorbito parecchi tipi di cucine, però realmente cucino umbro e romano. Ma quindi Giorgio, scusami, ma stasera che cosa cucini? Stasera abbiamo la stinco a birra e ginepro, che è un piatto piemontese, sì. E poi abbiamo invece i piccioncini alla spoletina, ripieni. Cosa c'è nei piccioncini alla spoletina? Stanno i loro fegatini e un pochino di carne macinata e un pochino di polpa di salsiccia. Giorgione, posso fare sentire una cosa che ho trovato in rete che racconta di quanto tu non sia solo un cuoco? Durante le riprese del suo programma, che Giorgione Orte Cucina, Giorgione cantava addirittura un pezzo di Battisti con una voce, devo dire, raggiungi dei livelli, insomma, di... una volta canticchiavo, senti, dicevo che questa poi è l'unica canzone che Battisti ha cantato che non è sua, quindi figurati, proprio una cosa... Perfetto. Giorgione, perché la cucina va così di moda in televisione adesso? Guarda, a me mi hanno chiamato al Gambero Rosso a fare questa cosa e io ero molto scettico, un po' perché non volevo fare il solito format, le solite cose, o il cuoco arrabbiato. Sì. Il cuoco arrabbiato è una bella categoria, quella del cuoco arrabbiato, perché subito fa venire in mente quelli che insultano gli altri in cucina. Io vivo in grande armonia con i miei collaboratori, siamo insomma adesso senza fare frasi trite e ritrite la famiglia, però insomma in realtà non c'è assolutamente odio fra cucina e sala, si sta in allegria e non c'è questa gerarchia micidiale. È ovvio che poi la responsabilità della cosa la prendo io, quindi lo fa come dico io, ma questo non vuol dire fine che uno deve prendere a scarassoli e appiccicarli contro il muro. Ma perché effettivamente, Giorgione, scusami, la sensazione è che quando si parli della cucina, o meglio, la narrativa della cucina televisiva degli ultimi anni, è che la cucina è una sorta di campo di battaglia in cui si consuma una guerra di cui in sala nessuno sa nulla. Però probabilmente è vero nelle cucine dove ci sono le batterie. Diciamo delle cucine di alto livello, dove ci sono i cuochi di partita, dove c'è una gerarchia che necessariamente poi non consente una democrazia. Però in una cucina, diciamo tra virgolette, normale, io al massimo ho fatto sono 130 coperti a botta, alla fine diventa un'altra cosa. Poi io ho un menù fisso, quindi oggi si mangia questo e si mangia questo, oggi ci sono due primi, due secondi, due contorni e quei dolci, si fanno solo quelle cose, quindi non c'è una comanda, non c'è tutta quella, diciamo, messa in scena di una cucina molto più ampia e sofisticata. Io cucino oggi, per dire, tagliatelle e stringozzi, e domani faremo i ravioli e i capunti, però sono due cose con due sughi e due secondi, quindi anche il collaboratore non è che deve fare chissà cosa, deve concludere un percorso cucinando. Io poi, siccome amo stare in sala, alla fine cucino il pomeriggio e la sera sto in sala, loro mi fanno le cotture e io sto a posto. Ma e come si diventa cuochi, Giorgione? A questo non me lo chiedere. Cioè, tu come sei diventato cuoco? Io facciamo faccio così. Assolutamente, esquisitamente da me. Ho sempre avuto questa passione fin da piccolo e facevo i catering, facevo queste cose per amici di amici, vedevo che mi veniva bene. Nel 2006 ho aperto un ristorante che ha avuto un successo insperato, adesso sto lavorando di nuovo e grazie a Dio mi sta andando bene. Che vi devo dire? Non lo so come si diventa cuoco. Ma ad esempio, visto che il primo ristorante, lo hai detto adesso, l'hai aperto nel 2006, prima cosa facevi nella vita? Ah, io ho fatto tutt'altro e continuo a fare tutt'altro. Questa è una delle cose che mi piace di fare e grazie a Dio ho il potere di poterlo fare. Cioè, io poi alla fine sono anche fortunato. Abito in Umbria, al centro di un bosco, in una casa isolata, con i miei animali, con le mie cose, e sono fortunato. Sì, sembra una vita bellissima effettivamente raccontata così. Te la invidio già, guarda. Non è tutt'oro quel che luccica, quanto ma va bene. Te la invidio già. Senti, per chiudere, poi ti lasciamo andare, ce lo dici un piatto estivo? Visto che oggi la puntata è dedicata più o meno a quella, no? Un bel piatto che sappia di estate, che magari ricordi qualcosa, che abbia una storia particolare anche. Guarda, per me, pensa, me l'ha insegnato la mia tata proprio tirolese. E loro, tu dici, ma come, in Tirolo i pomodori? In qualsiasi piatto tirolese ci sono i pomodori, perché loro li fanno, riescono a coltivarli ed hanno dei pomodori anche tra l'altro strepitosi. Lei mi ha insegnato a fare questi pomodori spaccati a metà e messi su un letto di cipollina rossa fresca fresca, dentro una padella larga, messi a pancia in giù, non tagliati, ma solo aperti a libretto, e messi a pancia in giù. Fuoco vivacissimo, 5 minuti proprio, non fare il sugaccio, ma friggere questi pomodorini. E friggere nel senso che ci metti l'olio, non è che deve essere friggere. Sì, chiaro, chiaro. Ecco, soffritti un po' d'olio. Alla fine ci butti dentro dei tagliolini, basilico, parmigiano e un filo d'olio a crudo sopra. Strepitosi, semplicissimi, freschissimi, ma non hanno niente a che vedere con un sugo di pomodoro fresco o con un sugo di pelati, perché sono veramente diversi. Ok, e invece scusami, poi davvero chiudo perché a questo punto sono curioso, un dolce, perché il dolce è sempre associato a qualcosa di invernale, no? D'estate si pensa sempre solo alla frutta, invece un dolce estivo? Un dolce estivo tu fai una costata di frutta, ci fai una base di o anche di millefoglie o anche di pasta frolla e poi ci metti tutta la frutta che c'hai bella con un pochino di crema abbastanza lenta, una chantilly qualsiasi, e ci metti tutti i frutti di bosco che ti pare, le frutta più fresche che hai le metti lì, è sempre un bel mangiare. Era Giorgio Barchiesi, conosciuto come Giorgione, guardatevi Giorgione Orte Cucina su Gambero Rosso, giusto? 411 perché c'ha l'HD. Grazie mille Giorgione, bocca al lupo per tutto, ciao, a presto, ciao, grazie. Il piatto preferito di Loris, Giorgione è il migliore di tutti, vorrei sentirlo tipo una volta a settimana, così, giusto per parlare di cucina. Loris scrive, il mio piatto preferito è il piede e il muso del porco mangiato in strada a Napoli con sale e limone. E con questa chiudiamo questo primo venerdì caldo di giugno, ringrazio tutti, ringrazio Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Silvia perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Gianni, siamo dalla provincia di Brescia e la storia di lunedì è la mia. Parla di un'emozione con mia figlia Carolina. Questa è la mia storia ed io sono qui.